buongiorno a Massimo Mezzetti, nuovo direttore generale del Biografilm Festival edizione 2022. Buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto Massimo, quanta emozione per questo nuovo incarico al Biografilm Festival 2022? Beh, io sono molto contento della proposta che mi è stata fatta e l'ho accolta in maniera entusiastica, perché chi conosce un po' la mia storia passata sa che appunto ho ricoperto il ruolo di assessore 10 anni in questa regione e che sono stato, diciamo, il promotore, il realizzatore della legge sul cinema dell'Emilia Romagna, che ha consentito all'Emilia di tornare al centro della scena nazionale e anche, mi permettete di dire, internazionale, delle produzioni cinematografiche e anche della diffusione della cultura cinematografica attraverso festival e rassegne, di cui Biografilm è uno dei festival d'eccellenza, anzi forse insieme al cinema ritrovato il festival d'eccellenza in Emilia Romagna, un festival che è cresciuto nel corso degli anni, il prossimo anno sarà la 18ª edizione, quindi un festival che diventa a tutti gli effetti maggiorenne, potremmo dire, è un festival che incontra quelli che sono anche la storia dei miei valori, della mia cultura, dei miei valori, dei miei principi che ho sempre portato avanti, perché potremmo definire Biografilm Festival un festival partigiano, nel senso che è sempre stato dalla parte dei diritti umani, dei diritti delle donne, dei diritti LGBT, dalla parte dei più deboli, degli emarginati e dei diritti sociali e civili in tutti i paesi del mondo, e è sempre stato portatore di questi messaggi, e quindi sono entusiasta di accettare, perché questo si incontra con tutta quella che è anche la mia storia culturale che mi porto come bagaglio in questa esperienza. Quali saranno gli obiettivi e le novità di questo nuovo incarico da direttore generale per il festival, che appunto sta raggiungendo la maggiore età? Intanto diciamo che io condividerò la direzione insieme a Lena Pasanen, che è già direttrice artistica del festival, che continuerà ad esserlo, e che Lena ha contribuito a renderlo ancora più internazionale, perché la rete di relazioni internazionali che Lena è riuscita a costruire in questi anni, purtroppo sfortunati, perché i 2 anni della direzione di Lena Pasanen hanno coinciso con quello che è stato la pandemia, e quindi con un ripiegamento sull'online del festival e di un ibrido nell'edizione 2021. Speriamo nel 2022 di tornare pienamente in presenza, anche se manterremo anche la parte online, un equilibrio, un dialogo tra l'online e un site che consentirà attraverso l'online anche di raggiungere pubblici diversi, ma anche in altre parti d'Italia e anche in altre parti del mondo, come già hanno dimostrato i dati statistici delle ultime edizioni. E punteremo a rafforzare ulteriormente questa rete internazionale, probabilmente anche rafforzeremo una parte di programma e di offerta del festival stesso. L'ambizione è quella di affermarci sempre più come uno dei principali protagonisti di festivalieri del cinema, della diffusione della cultura cinematografica attraverso la biografia, attraverso il documentario, come dicevo appunto, è fondato sul principio, una scelta precisa di principi e di valori. E questa è l'ambizione di creare. Io ho la fortuna di entrare in un team già forte, coeso, e di forti e bravi professionisti, quindi la strada era già segnata, spero di poter contribuire anche col bagaglio della mia esperienza a rafforzare ulteriormente questo percorso e anche implementare le scelte non solo artistiche ma anche organizzative di proposte che il festival farà nel prossimo futuro. Perfetto Massimo, io la ringrazio, insomma in bocca al lupo per tutto il lavoro che vi aspetterà per questa nuova edizione del Biografilm Festival 2022. Grazie a voi.